Io, Angelo Dal Pont, tipografo da Polpette, ero seriamente disturbato dalle formiche mentali, le quali mi dicevano: lo sai che non esisti? E se esisti, esisti male? Perché mangi carne di pesce? Come mai non ti sei inserito? Oppure: a noi formiche vuoi bene? Guai se non ti sottometti al nostro amore. Una sera chiesi aiuto a Santa Rita, la quale venne, batté le mani e disse: orsù, saccenti animaletti, lasciatelo in pace. Così fu. Per grazia ricevuta, da allora potei accudire serenamente al mio lavoro e alla mia famiglia.